niente, una breve introduzione veloce, secondo me, che poi così quasi per caso, per non so per quale motivo, a un certo punto ci siamo resi conto che tra i dei produttori con cui condividiamo da più tempo alcune progettualità, alcuni scambi, cose così, facevano farina di mais. Quindi ci è sembrato automatico e interessante metterle un po' a confronto queste cose. E ci interessava, vabbè, due produttori, Sandro e Gabriele, sono nel Parco del Ticino, quindi molto vicino a casa nostra e li conosciamo bene. Mentre la Basia con altri agricoltori lo fanno sul Lago di Garda, quindi immagino che sia un contesto territoriale, culturale, completamente differente. Quindi, boh, niente, ci piaceva l'idea di tre storie differenti, mettere un po' a confronto e vedere cosa viene fuori. Quindi, molto in libertà. Poi, appunto, non so se Gabriele, sicuramente a Leoncavallo c'è stata già la possibilità di assaggiare la sua polenta. Sandro forse no, non l'ha mai fatta qua al Leo, o sì. E invece stasera ci sarà la sua in cucina, quindi c'è anche quel lato di sensibilità, di degustazione. Niente, fate un po', non so, chi vuole iniziare, raccontare un po' che cosa vuol dire coltivare la farina di mais, il mais.